Mango Tart legge Manacold di Sen Lin Yu. Capitolo 21. Hermione rimase seduta sul lettino in uno stato di orrore. Il suono graffiante della penna d'oca della guaritrice continuava insieme al ticchettio infinito e monotono dell'orologio. Sentiva la bocca riarsa e faticava a deglutire. Aveva un sapore acido in bocca. Cercò di respirare uniformemente, ma scoprì di avere la gola chiusa e non poté fare altro che stare seduta rigidamente e cercare di non svenire al pensiero di essere consegnata a Lucius Malfoy. Lucius Malfoy, che era pazzo, molto più pazzo di quanto fosse stata Bellatrix Lestrange, che infrangeva sempre le regole, superava i limiti e in qualche modo riusciva a usare la sua lingua biforcuta per salvarsi la pelle, che avrebbe potuto uccidere Arthur Weasley, ma invece aveva scelto di maledirlo in modo tale da sottrargli la mente e lasciare il suo corpo intatto perché la sua famiglia se ne prendesse cura e lo piangesse. Un'ombra indifesa e infantile di un padre meraviglioso e generoso, che aveva maledetto George con un'orribile variante della maledizione della necrosi che aveva costretto Hermione a tagliargli la gamba all'anca mentre era ancora cosciente per salvarlo, che aveva ucciso Ron davanti agli occhi di Hermione, ridendo per tutto il tempo. Pensò che avrebbe potuto svenire o semplicemente scattare e iniziare a urlare. La testa le martellava e la stanza si muoveva leggermente. Iniziò a tremare. «Cosa c'è che non va?» chiese la guaritrice Stroud. Hermione trasalì. «Ha appena minacciato di consegnarmi a Lucius Malfoy». «Spero che non si arrivi a tanto», disse lei con voce blanda. «E se invece ci arriva?» «Beh, possiamo farlo sorvegliare, se sei troppo preoccupata che Lucius esageri. È un peccato che non possa ridarti la pozione di fertilità questo mese». Ti farò mandare alcune pozioni che dovrebbero almeno alleggerire le cose e possibilmente migliorare le tue probabilità di successo. Lei tacque e non parlò più. Si sentiva così male che si chiese se si stesse avvelenando da sola. Malfoy arrivò tardi e lei lo fissò svogliatamente. La sua espressione era dura, la mascella serrata e gli occhi freddi e incisivi, ma anche stanchi. Probabilmente aveva rincominciato a dare la caccia all'ultimo membro dell'ordine, o forse era preoccupato che suo padre la uccidesse prematuramente. Lei lo studiò, cercando di indovinare dalla sua espressione perché mai avrebbe fatto qualcosa per non metterla incinta intenzionalmente. Non riusciva a pensare a una spiegazione. Continuava a rigirarsela nella sua mente, ma non riusciva a trovare niente che le sembrasse plausibile. Aveva passato in rassegna tutte le possibilità. Poteva essere perché trovava così discutibile l'idea che lei fosse la madre biologica del suo erede. Ma dubitava che fosse quello il problema. Per prima cosa, a parte il fatto che usava sangue sporco come se fosse il suo nome, non sembrava preoccuparsi molto della purezza del sangue. Non trattava la vittoria di Voldemort come una prova della superiorità di puro sangue, né la prigionia di Hermione come se fosse dovuta al suo sangue sporco. Ogni volta che parlava della guerra, si riferiva alle parti come separate principalmente dall'idealismo contro il realismo. Nella sua esperienza, i bigotti erano ossessivi con il bigottismo. Draco Malfoy a Hogwarts era un piccolo pappagallo del bigottismo di suo padre. Il Draco Malfoy del presente, Hermione non era sicura di cosa fosse ossessionato. Hermione stessa, se avesse dovuto dar credito ad Astoria, e non sapeva cosa credere, aveva sempre una risposta pronta e una scusa convincente per tutti i suoi comportamenti. Perché non avrebbe dovuto volerla incinta? Non riusciva a immaginare dove la cosa si ponesse strategicamente. Non avrebbe mai voluto rimanere incinta, ma ora, sapendo cosa avrebbe fatto la guaritrice Stroud e Voldemort per assicurarselo, si sentiva ancora completamente nauseata al pensiero di avere Malfoy che la prendeva sul letto con meno distacco, al pensiero di rimanere incinta, e poi essere consegnata a Lucius. Non c'era una buona opzione, solo peggio e peggio ancora, fino a pensare che avrebbe avuto un crollo. Malfoy le lanciò un incantesimo diagnostico sugli occhi e lo studiò. «Quanto puoi vedere ora?» chiese. Hermione rise bruscamente. Non aveva idea di quando avesse riso l'ultima volta. Anni prima, molto probabilmente. Ma la domanda era divertente, persino esilarante. Tutto nella sua vita era un totale e assoluto orrore e in qualche modo la prima preoccupazione di Malfoy era la sua vista. La teneva prigioniera in casa sua. La violentava a comando. Ma si preoccupava della sua vista. Non riusciva a smettere di ridere. Continuava e continuava e diventava sempre più isterica e poi non rideva più. In realtà stava piangendo. Piangeva e piangeva e piangeva mentre si dondolava sul bordo del letto e Malfoy se ne stava lì per tutto il tempo a fissarla, senza espressione. Ci vollero 20 minuti prima che finalmente smettesse di singhiozzare. Poi rimase seduta lì, sobbalzando e tenendosi le mani sugli occhi mentre cercava di respirare. Era come vuota dentro, come se avesse singhiozzato tutto ciò che aveva e tutto ciò che rimaneva fosse un guscio. Alla fine tornò tranquilla, tranne che per un occasionale respiro affannoso mentre fissava il pavimento e desiderava morire. «Ti senti meglio?» Contrasse le labbra e scrollò le spalle stancamente. «Più vicino al meglio che mai», disse. Si fissò le mani e notò che anche le sue dita si contraevano sottilmente. Alzò lo sguardo. «Per cosa sei stato torturato questa volta?» chiese. Sorrise mentre faceva scivolare la bacchetta nella mano destra. «Chiaramente non hai seguito le notizie ultimamente. Il pubblico, tramite la sua vasta intelligenza collettiva, ha in qualche modo concluso che io sono Lai Reeves, anche senza la conferma della Gazzetta del Profeta». La notizia suscitò la sua curiosità. «A causa di Montague?» Lui scrollò le spalle. «Potrebbe essere collegato, ma sospetto che abbia più a che fare con la mia apparizione in Romania che coincide con la visita dell'Lai Reeves. La stampa in alcuni degli altri paesi europei è molto meno controllata di quella britannica. Una volta che un giornale inizia a dirlo, non ci mette molto a diffondersi. Ora sono pubblicamente riconosciuto come il protetto del Signor Oscuro. Il precedente anonimato era per la mia protezione, naturalmente». «Certo», disse Hermione, «ma sei stato punito?» «Gli altri sono morti», rispose lui, gli occhi freddi. «Io sono stato solo castigato». «Allora sono 2 minuti di Crucatus», chiese Hermione in tono pungente. 5. Si sentì impallidire dall'orrore mentre lo fissava. Lui fece un sorriso sottile. «Non preoccuparti per me, mia piccola e coscienziosa guaritrice. È stato giorni fa. Sono ancora vivo». Ci fu una pausa. «Perché hai ucciso Montague?» chiese. Era rimasta a letto per giorni e continuava a chiederselo. Se aveva intenzione di uccidere Montague, perché non l'aveva fatto subito? Perché pubblicamente? Malfoy sorrise. «Mi stavo chiedendo quando avresti finalmente fatto questa domanda. Avrei pensato che fosse ovvio. Ha palesemente e intenzionalmente interferito e messo in pericolo il mio incarico. Nonostante sia stato ripetutamente avvertito che non dovevi essere manomessa in alcun modo, l'avrei fatto in modo più formale. Ma dato il viaggio, ero purtroppo a corto di tempo». «Così l'hai ucciso nel bel mezzo del San Mungo», disse lei, guardandolo con aria dubbiosa. «Beh, stavo per ucciderlo nella sua stanza, ma ha cercato di scappare. Ho improvvisato». L'espressione di Malfoy era indifferente. «Ora, se hai finito di tempestarmi di domande, credo che abbiamo in programma una sessione di legimanzia». Non le passò attraverso gli occhi. Non era sicura che ci fosse una precedente lettura sull'uso della legimanzia dopo una ferita all'occhio, ma Malfoy aveva apparentemente deciso di non rischiare e le aveva semplicemente attraversato il cranio. Faceva un po' più male del solito, ma una volta fattosi strada, il dolore si attenuò un po'. Desiderava che ci fosse un modo per dissociarsi anche mentre setacciava la sua mente, ma la legimanzia trascinava la vittima nella mente insieme alle Gillimans. Ovunque Malfoy entrasse nella sua mente, lo stesso faceva Hermione. Non aveva nuovi ricordi sbloccati, solo ripetizioni più fresche di quelli vecchi, specialmente il pianto di Ginny. Le sembrava di sognarla ogni notte, sempre lo stesso ricordo. Si fermava sempre allo stesso punto. Lui sembrò quasi esitare prima di approfondire i suoi ricordi recenti, di Montague, di Astoria, delle domande della Stroud prima e dopo il suo arrivo. Quando uscì di scatto, si sentì come se fosse crollata su se stessa. Rivivere tutto era abbastanza traumatico da farle serrare la mascella fino a sentire i denti quasi spaccarsi. Si girò su un fianco e si raggomitolò in una palla stretta. Malfoy sospirò, il suono appena udibile, ma non disse una parola. Si attardò ancora per qualche istante prima che lei lo sentisse andare via. Giacque nel letto cercando di non pensare, desiderando di poter spegnere la mente. Il terrore la inghiottì come un sudario, come il gelo di un fantasma. Pendeva ineluttabile intorno a lei. Non riusciva a toglierlo. Si preoccupava a malapena di provarci. Il giorno dopo la visita della Stroud, lasciò la sua stanza per la prima volta dall'equinozio. Si tenne nell'ala nord, vagando senza meta, in silenzio, alla deriva da una stanza all'altra, di finestra in finestra. Mentre il suo occhio continuava a riprendersi, riusciva a vedere abbastanza chiaramente da scoprire che la primavera aveva finalmente iniziato a insinuarsi nella tenuta. La fredda e grigia campagna inglese cominciava a mostrare i più tenui barlumi di verde fresco che sbirciavano dalle punte dei rami degli alberi e scivolavano cautamente fuori dal terreno scuro. Guardare la primavera dispiegarsi lentamente sembrava quasi una speranza. Tranne che il posto dentro Hermione, dove un tempo viveva la speranza, ora sembrava un buco. Come se qualcuno avesse raggiunto e tagliato via qualcosa dal nucleo del suo essere. Dove una volta era fiorita la speranza, ora non c'era altro che qualcosa di doloroso e marcescente. Ma comunque, la primavera era bella da vedere. Era sorprendente scoprire che c'erano ancora cose belle e incontaminate nel mondo. Al contrario, non razionalmente. Razionalmente, Hermione sapeva che il dominio di Voldemort non aveva cancellato le stelle nel cielo notturno, né distrutto la sequenza di Fibonacci, né contaminato i primi crochi di primavera. Ma in qualche modo la sorprendeva il fatto che potesse ancora vedere quella bellezza. In qualche modo aveva pensato che la brutta freddezza della sua vita indicasse che la brutta freddezza e la crudele bellezza fossero le uniche cose rimaste alla sua portata o alla sua vista. Mentre guardava fuori la tenuta che cominciava ad adornarsi di nuova vita, qualcosa dentro di lei rabbrividiva. Se avesse avuto un figlio, sarebbe stato bellissimo, incontaminato, pallido, liscio e rosa, con occhi fiduciosi che si sarebbero aspettati solo bontà, con mani che si sarebbero allungate verso chiunque si allungasse verso di lei. Un bambino sarebbe stato bello, puro come la primavera, dolce come l'estate. E poi le sarebbe stato portato via. Sarebbe morta e il suo bambino sarebbe rimasto lì, addestrato, ferito e contorto dentro fino a diventare un freddo, crudele mostro come Malfoy e Astoria e tutti mangiamorte. Hermione si staccò dalla finestra davanti alla quale si trovava e si affrettò verso le stanze interne dell'ala nord. Stanze senza finestre. Non voleva pensare alla primavera, o alla vita, o ai bambini, o alla bellezza, o alla bontà. Non voleva pensare alle cose belle che erano state, ma che ora erano distrutte. o alla bellezza che ancora rimaneva, gettava l'orrore di un rilievo più duro fino a rendere fisicamente doloroso pensare, respirare, vivere. Se solo una persona potesse morire semplicemente desiderandolo con sufficiente fervore. Non riusciva a mangiare. A malapena mandò giù l'acqua. Quando arrivò un set di 5 pozioni con il biglietto di Stroud, le infilò in un armadietto in bagno. Il terrore si attorcigliava sempre di più intorno al suo cuore, giorno dopo giorno, sapendo che il suo prossimo periodo fertile si avvicinava. Malfoy entrò inaspettatamente nella sua stanza. Lei quasi scoppiò in lacrime. Lui sembrava abbastanza teso da frantumarsi mentre la fissava. Scattò in piedi come se fosse stata fulminata e poi si bloccò. Ci fu una pausa. Malfoy sembrava più a disagio di quanto lei lo avesse mai visto. «Ho pensato che avvisare in anticipo avrebbe solo peggiorato le cose», disse Malfoy guardandola attentamente. «Non mi sono preparata», mormorò lei distogliendo lo sguardo da lui. «Fai la doccia ogni mattina. Non ho bisogno che tu ti lavi eccessivamente». La sua voce era tagliente come la lama di un coltello. Il ritratto apparentemente lo teneva ancora al corrente di tutto quello che faceva. Hermione continuava a stare in piedi e a fissarlo. Sembrava come la prima notte in cui era stata nella sua stanza, cercando di non tremare, chiedendosi se dovesse semplicemente andare da lui e sdraiarsi sul suo letto. L'avrebbe presa sul bordo o al centro? «Prendi questa», disse lui estraendo una fiala di qualcosa dalle sue vesti e tendendogliela. Lei accettò e ne guardò la consistenza e il colore prima di togliere il tappo. Una pozione calmante. La guardò mentre la prendeva. Sentì l'effetto della pozione quando la mascella e le spalle si sciolsero e la tensione alla base del cranio si rilassò, in qualche modo. Il nodo allo stomaco, attorcigliato sempre più stretto negli ultimi 12 giorni, finalmente si allentò leggermente. Mentre prendeva la pozione, Malfoy si infilò di nuovo la mano nella veste e tirò fuori una seconda pozione. Fu sorpresa di vedere che la prendeva lui stesso. Non sembrava essere una seconda fiala di calmante. Semmai sembrava più teso e arrabbiato dopo averla presa. Una pozione per la libido. Non le era nemmeno venuto in mente che prendesse qualcosa. L'aveva sempre fatto. A parte la prima notte, non l'aveva mai guardato. Anche allora avrebbe potuto prendere qualcosa quando lei gli dava le spalle. Perché avrebbe dovuto averne bisogno? La Stroud lo aveva descritto come perfettamente virile, eccezionale. Lo stupro non era proprio il suo genere. Devo stare al centro o sul bordo del letto? Si costrinse a chiedere. Lui la fissò. «Centro», disse infine con voce tagliente, «dato che mi è stato ordinato di essere meno distaccato». Hermione si voltò verso il suo letto. Il suo letto, dove dormiva ogni notte, l'unico posto con un senso di conforto o di sicurezza che le era rimasto. Il suo letto. Dove stava per essere? Era forse stupro? Se preferiva lui a suo padre. Si morse il labbro e deglutì a fatica mentre si avvicinava e cercava di non iniziare a piangere. Si sedette sul bordo e poi scivolò verso il centro approssimativo del materasso prima di costringersi a sdraiarsi. Malfoy si avvicinò un attimo dopo. Si era tolto la giacca esterna. Ora aveva solo una camicia e dei pantaloni. Si tese non appena lui si avvicinò, cercando di non digrignare i denti mentre sentiva la mascella bloccarsi. Lottò per non andare in iperventilazione mentre lui le si avvicinava e lo guardò con gli occhi sempre più grandi e terrorizzati. La cosa sembrò farlo scattare. «Chiudi gli occhi!» sibilò. «Non ti farò del male!» Si costrinse a chiudere gli occhi e cercò di concentrarsi sul regolare respiro mentre sentiva il letto spostarsi. Poteva sentire il suo odore. L'odore pungente del suolo della foresta la colpì improvvisamente mentre cercava di non andare in iperventilazione. Ci fu una pausa e poi lo sentì farle scivolare il vestito da parte e muoversi tra le sue gambe. tra le gambe, come Montague, le piccole rocce affilate e fredde. Singhiozzò tra i denti e si mosse. Era così tesa da tremare. Poteva sentire le unghie che le tagliavano costantemente la carne dei palmi mentre li stringeva sempre più forte. «Non ti farò del male!» Malfoy respirò le parole vicino al suo orecchio sinistro. Lei fece un piccolo cenno di riconoscimento. «Meglio di Lucius!» «Dio, non riusciva nemmeno a pensarci!» Sobbalzò e trattenne un altro singhiozzo, cercando di rilassarsi marginalmente. «Respira e basta», le disse lui. Lo sentì mormorare un incantesimo di lubrificazione un attimo prima di scivolare dentro di lei. Cercò di concentrarsi sulla respirazione, a soffermarsi sulla sensazione della sua gabbia toracica che si spandeva e contraeva, o le unghie nei suoi palmi. Sentiva il respiro di Malfoy sul suo viso, l'odore dell'olio di legno di cedro nei suoi vestiti, il peso del suo corpo premuto contro di lei, la lunghezza dentro di lei. Non voleva nulla di tutto ciò, ma non poteva non sentirlo. Era ovunque, la circondava, la sensazione di lui in lei e del suo peso su di lei era ineluttabilmente reale. Non poteva distaccarsi come aveva imparato a fare sul tavolo. Voleva pregarlo di fermarsi. Meglio di Lucius, meglio di Lucius. Voleva solo che finisse. Non aveva intenzione di farlo, ma si rese conto che c'erano lacrime che le scendevano dagli angoli degli occhi mentre lottava per non singhiozzare. Alla fine lui la afferrò e venne con un sibilo. Nell'istante in cui lo fece, si staccò da lei e dal letto. Hermione aprì gli occhi e cercò di calmarsi. Mentre era sdraiata, si accorse del suono dei rigurgiti che usciva dal bagno. Mentre giaceva lì, sentì lo sciacquone e poi il suono dell'acqua che scorreva dal rubinetto, per diversi minuti. Cercò di ricomporsi e di non pensare al fatto che non poteva muoversi, non pensare all'esperienza fisica di quello che era appena successo. Era stato il più premuroso possibile. Era bizzarro. Era una persona fredda, indifferente, assassina che sventrava facilmente le persone, ma con lo stupro aveva superato il limite. Vomitava sempre dopo. O il fatto di doverla guardare peggiorava la situazione. Forse era successo qualcosa a qualcuno che conosceva, qualcuno a cui teneva, forse era collegato alle sue abilità con la Avada Kedavra. Malfoy riemerse dal bagno. La sua espressione tesa sembrava sbiadita, come se non riuscisse a mantenerla. Era pallido ed esausto, e dall'aspetto più traumatizzato di quanto non l'avesse mai visto. Non era mai rimasto dopo averlo fatto, prima. Se n'era sempre andato prima ancora che lei lo vedesse. Forse era sempre così, dopo. Sembrava preoccupato per lei. Non glielo aveva chiesto, ma la stava studiando attentamente dall'altra parte della stanza. «Mi dispiace», si ritrovò a dire, batté le palpebre. Perché si stava scusando con Malfoy? Era come se le parole le fossero scivolate fuori di loro spontanea volontà. Lui la fissò, sorpreso. Cercò di chiarire. «Per aver pianto, eri...» Non aveva idea di come descriverlo. «Non il peggior stupratore del mondo?» «Mi ha ricordato Montague», disse infine, distogliendo lo sguardo. «Speriamo che domani sia più facile», le disse con voce dura. Poi richiamò le sue vesti e uscì dalla stanza senza un'altra parola. Hermione rimase lì, guardando le lancette dell'orologio che percorrevano lentamente il quadrante. Trascorsi 10 minuti, non si era ancora mossa. Forse, se avesse aspettato più a lungo, la gravidanza sarebbe arrivata e allora non avrebbe dovuto stare lì sdraiata a sopportare di essere... Non era sicura di quale fosse il termine appropriato per quello che Malfoy le aveva fatto. Mentre il concetto generale e la situazione erano classificati come stupro, non sentiva che il termine catturasse completamente ciò che era successo. Non era sesso, o scopare, o fottere, o anche prendere. Copulare era forse il termine appropriato per quello che era prima, sul tavolo, ma ora era troppo reale. connesso e miserabile per entrambi, per usare un termine così clinico. Non c'era una parola per dirlo. Avrebbe volentieri fatto a meno di essere toccata da un uomo per tutto il tempo che sarebbe vissuta. Non voleva pensare all'arrivo di Malfoy e a ripetere tutto di nuovo, il giorno dopo. Il pensiero della vita che accelerava in lei era terribile. Il pensiero che non poteva sopportare Malfoy. Non pensava di poter sopportare Lucius. Si girò su un fianco e si addormentò sopra le coperte.